Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. La mia soluzione per rilanciare i consumi e offrire aiuti alle famiglie è quella di far scaricare tutto a tutti, trasformando il popolo dei codici fiscali nel popolo delle partite IVA e allo stesso tempo dimezzare le tasse indirette ed azzerare i costi dei conti correnti per disincentivare progressivamente l'uso dei contanti. Se dopo ogni terremoto si ricostruisce usando sistemi sempre nuovi e migliori per prevenire, perché anche noi non usiamo questo terremoto per rifondare non solo la finanza ma anche la fiscalità? Come? Ritengo che mettendo tutto in chiaro, facendo scaricare tutto a tutti, con aliquote diversificate e intelligenti, ed imponendo la tracciabilità con la moneta elettronica e gli assegni, si allargherebbe la base imponibile e dai consumi veri verrebbero fuori i veri ed i falsi ricchi. Di conseguenza, il controllo fiscale si ridurrebbe ad una serie di estratti conto e basterebbe incrociarli. Le mafie dovrebbero rivedere tutto quanto si basa sui contanti e sarebbe così per tutto. Lettera firmata. Io apprezzo l'invito di Berlusconi all'ottimismo, che non significa far finta di non vedere il cambiamento dell'economia mondiale e locale, ma significa invece saper vedere il bicchiere mezzo pieno e capire che il piangersi addosso non ci aiuterà. Io appartengo a quello che genericamente si chiama ceto medio e sinceramente ad oggi non ho ancora avvertito economicamente un cambiamento del mio stile di vita. Ho avvertito, quello sì, il prezzo elevatissimo della benzina, che ora fortunatamente si sta ridimensionando, e ho accusato molto la paura di vedere andare in fumo i risparmi affidati alla banca. Ora il governo è riuscito, con i provvedimenti presi, a tranquillizzare a sufficienza i risparmiatori e sta lavorando per aiutare nelle misure possibili chi non ce la fa. L'ottimismo è rivolto alle persone che hanno il lavoro, che fanno ancora le vacanze, che si possono permettere anche il superfluo, che in questo momento sono portate alla prudenza e alla rinuncia di acquisti che si potrebbero magari permettere, ma che evitano per eccessivo senso di timore del futuro. È una reazione quasi istintiva di protezione, ma ai fini della situazione generale potrebbe trasformarsi in un boomerang e sicuramente chi rinuncia a spendere, potendolo fare, contribuirà all'aggravamento del ciclo produttivo. Come quando si fanno le raccolte per le grandi cause, oggi chi può ancora permettersi di comprare dovrebbe comportarsi come prima, senza rinunciare eccessivamente ai consumi, pensando che così si aiuta chi rischia di perdere il lavoro. Non serve fare grandi cose, l'importante è non chiudersi a riccio e non seminare sfiducia e quel sentimento di insicurezza che può dominarci più di qualsiasi crisi. Lettera firmata. Sento, attraverso la radio, che sono molti i suggerimenti che arrivano per il ministro Brunetta e alcuni di questi sono di immediata attuazione e di buon senso. Essi sono una vera sfida al ministro che, se vuole fare sul serio, non ha che da metterli in fila a prendere provvedimenti. Colgo così l'occasione di proporre anche i seguenti. Come mai si continuano a vedere sulle gazzette ufficiali tanti concorsi per uno o due posti relativi a qualifiche varie, dalla più alta alla più bassa? Dato che questi concorsi hanno un costo sociale, perché invece non si raggruppano, almeno a livello regionale, per tutte le varie amministrazioni centrali e locali? Come mai si continuano a fare concorsi di assunzione senza prima esperire le procedure di mobilità come previsto dal decreto legislativo 165 del 2001, che se non sbaglio è ancora in vigore? Perché il ministro non utilizza o fa utilizzare l'istituto dell'autotutela amministrativa per le varie procedure che negli ultimi anni hanno sconvolto l'organizzazione degli uffici con promozioni verticali ottenute con selezioni ridicole o solo in base all'anzianità? Sappia il ministro che esistono casi in cui le persone hanno acquisito le condizioni economiche relative alle nuove qualifiche, ma non i relativi compiti e responsabilità. Perché non chiede conto da una parte all'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dall'altra alla Corte dei Conti, della qualità dei controlli sul corretto utilizzo delle risorse destinate al personale? Forza, ministro, un po' di coraggio. E mi raccomando, se decide di fare qualcosa di serio agendo sui fannulloni da 10.000 euro al mese, faccia dare adesso la stessa pubblicità che è riuscito a dare alla pur sacrosanta lotta contro quelli da 1.000 euro al mese. Fiorella. Sta Stamattina ho deciso che uscirò e andrò a comprarmi un bel paio di pantofole nuove, calde, morbide e anche colorate, per dare un bel benvenuto all'inverno. Starò comoda e darò il mio contributo ai consumi e all'economia. Ma una vocina già mi sussurra. Non basta. Per aiutare il tuo paese dovresti comprare anche una bella borsa, certamente non dai senegalesi che vendono prodotti contraffatti, o un cappottino nuovo made in Italy, un frullatore. E se ce la fai, anche una nuova automobile, piccola magari, per girare per la città a caccia di posteggi a pagamento. Ma di borse ne ho tante, non mi servono, di cappotti pure. Il frullatore è vecchietto, ma frulla le banane a meraviglia. La mia auto ha spento proprio ora la prima candelina. Che faccio? La rottamo? Pur non essendo una modaiola, ho vestiti da riempire più di un armadio. Che faccio? Ne devo comprare uno nuovo per metterci i nuovi acquisti? Sarebbe un'idea, ma sarei costretta a comprare pure una nuova casa per farci stare il nuovo armadio. Ho l'impressione di complicarmi troppo la vita. Un nuovo mutuo di questi tempi è meglio non farlo. Mi limiterò a comprare le pantofole e a tenermi il senso di colpa per non aver aiutato qualche precario a rimanere precario. Per oggi, questo sarà il mio aiuto al consumismo. Che devo fare? Giulia. Vorrei portare la mia testimonianza di ex ricercatrice. Qualche anno fa ho partecipato a un concorso per il dottorato, il classico concorso farsa. Tuttavia ho fatto questo concorso con tutto il mio impegno, per lasciare di me quantomeno una buona impressione. Risultato: ho fatto un concorso così bene che non sono riusciti a mettermi fuori graduatoria. Così l'ho vinto, scalzando una delle persone a cui era già stato destinato il posto. Questa persona è poi stata recuperata per altre vie. La mia gioia è stata molto breve, perché hanno fatto di tutto per farmi pentire di aver vinto. All'inizio hanno cercato di indurmi a rinunciare al posto, cosa che non ho fatto. Infine mi hanno reso impossibile la vita, in modo tale da farmi scappare. Risultato: la vincita del dottorato, anziché aprirmi le porte, è stata per me la rovina della mia carriera. E alla fine mi ritrovo a maledire di aver vinto quel concorso. Nella mia esperienza lavorativa ho trovato centri di eccellenza, ai quali però i finanziamenti vengono dati col contagocce. Ma ho trovato anche molti centri in cui ci sono sprechi incredibili, incompetenza, e nonostante ciò, i soldi piovono lo stesso. Soldi destinati allo spreco, spesi in cose inutili. Mi sono trovata a lavorare con attrezzature scadenti. Un esempio: ho lavorato in cellule lavoro che richiedevano ambienti assolutamente sterili. Bene, nel posto in cui lavoravo si sono spesso trovati scarafaggi, evviva la sterilità! E il capo si stupiva del fatto che le cellule si contaminassero. Mi è capitato di vedere anche questo. Un esperimento dava risultato B, ma per la pubblicazione occorreva il risultato A. Ebbene, il capo diceva: non importa se è uscito B, tanto noi diremo che è uscito A. Inoltre, nel mondo della ricerca si sa che gli stipendi sono da fame e non tutti possono economicamente permettersi di fare questo lavoro. Così, il lavoro di ricercatore è un lavoro d'élite, per pochi. A me è stata offerta la possibilità di andare negli Stati Uniti. Tuttavia, per problemi personali, ho dovuto rinunciare. Non trovo comunque giusto che le persone per poter lavorare siano obbligate ad andare all'estero. La mia delusione è tanta. Maria. La vicenda scuola è emblematica dell'operato del nostro governo. Fa studiare l'educazione civica, l'educazione stradale, la Costituzione, gettare fumo negli occhi ai cittadini con la favoletta del grembiulino e intanto tagliare i fondi alla scuola pubblica, perché tagliare è più semplice di razionalizzare. Bastava controllare meglio la sanità, vedi Sicilia, pianificare meglio i condoni, 5 miliardi di euro non rientrati e già spesi, e si poteva pensare ad una riforma della scuola condivisa. Io insegno matematica e fisica alle superiori e penso che la scuola vada riformata, ma non tagliandole i fondi. Va riformata nel senso che bisogna far amare di più le materie scientifiche ai ragazzi, aumentando il tempo scuola e non diminuendolo. Va incrementato l'utilizzo dei laboratori che, se tenuti in efficienza, costano molto. Di questo parlo con cognizione di causa perché assisto alla lotta quotidiana con i pochi fondi in rapporto alle esigenze di funzionamento di macchine per esperimenti e PC. Tutti noi docenti siamo sensibili ai risparmi, che devono essere allargati a tutti gli aspetti dell'insegnamento. Fotocopie controllate da un responsabile, richieste di materiale rigorosamente documentate dalla effettiva necessità, presentazione di progetti efficaci e indispensabili. Noi docenti non siamo stati per nulla interpellati. È come se il medico decidesse di sottoporre il paziente ad una terapia dolorosa senza nemmeno avvertirlo. Nessuno al governo ci ha permesso di esprimere le nostre istanze. Giulia Asti. Ma perché togliere i crocifissi significherebbe perdere la nostra identità europea, come ha detto il senatore Pera? Il crocifisso è il simbolo della Chiesa e non dovrebbe stare nei luoghi pubblici, poste, scuole, ospedali, emanazioni dello Stato laico. Preferirei una bandiera italiana al suo posto. La Francia li ha tolti molto tempo fa, senza tradire le radici europee. Ma la Francia è un vero Stato laico. Grazie, Karen. Egregio direttore, da oltre 25 anni mi alleno giornalmente confrontandomi per la mia attività professionale nel marketing con le necessità di creare strumenti che consentano alle aziende di trovare nuovi spunti e idee pratiche per navigare nel mare della competitività del mercato che, in fin dei conti, è costituito da tutti noi e dalle nostre esigenze. Mi rendo conto che l'attuale crisi sia un'incognita anche per i più esperti economisti e credo che la maggior parte dei politici si arrampichi sugli specchi pur di dire la propria opinione, anche a costo di dire stupidaggini senza capo né coda. Rimango però allibito nel constatare che operazioni semplici e veloci nel tempo, che potrebbero fornire alla gente comune un po' di respiro e un po' di sensato ottimismo, non vengano prese in nessuna considerazione. Mi permetto di illustrare alcuni esempi. Distribuire per 2 anni i testi scolastici per ogni grado di scuola a titolo gratuito. Incentivare l'uso della formula del noleggio a lungo termine per l'autovettura, ampliando i benefici fiscali alle imprese ed estendendole al privato. Liberalizzare nel commercio gli orari d'apertura degli esercizi, togliendo i vincoli relativi ai saldi stagionali. Dirottare parte dei misteriosi fondi per le infrastrutture a beneficio delle città, per costruire piste ciclabili, incroci sicuri, marciapiedi e quant'altro. Non sono cose complicate, ma avrebbero un plauso dai semplici uomini della strada. Poi vengono pure i salvataggi delle banche, ma ricordandosi che prima vi sono cose concrete. Poi vengono gli interessi di parte. Con stima, Alberto. Caro Alberto, lei chiede un po' di buonsenso alla politica, chiede di cominciare dalle piccole cose e puntare su tanti piccoli interventi per dare maggiore efficienza al sistema economico e migliorare la sostenibilità della nostra vita quotidiana. Il suo è un richiamo che la politica dovrebbe accogliere, anche se non dimentichiamo che la politica non ama molto le piccole cose, preferisce i grandi annunci, le grandi opere, le grandi promesse. Mi permetta solo una piccola battuta poi sui salvataggi delle banche. In questo caso non si tratta di interessi di parte, ma dell'interesse dell'intero paese. Dagli Stati Uniti alla Francia, dall'Olanda alla Gran Bretagna, molte nazioni sono intervenute per aiutare istituti di credito in difficoltà. Non ci sarà da stupirsi se questo dovesse avvenire anche in Italia. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.